Le reazioni che ci sono state nel suo blog a quelle frasi che lei ha detto a proposito di sua moglie, che le ha chiesto perché non lascia perdere, credo ci vergogni, vertono soprattutto sul fatto che lei ha dato l'idea dicendo e scrivendo: lo scorso anno ho dichiarato 122.000 euro, ne ho versati 55.000 euro, il direttore della Camera di Commercio del mio paesello guadagna di più. Insomma, ha dato l'idea che lo stipendio dei parlamentari alla fine non è che sia poi così cospicuo No, e l'idea che... l'ha data Repubblica non mettendo la frase dopo. Vabbè, e la frase dopo noi l'abbiamo citata, sia Lei chiaro, l'ha nessuno muore citata. di fame, eccetera, Ecco, eccetera. e anche la frase prima, nessuno prende 24.000 euro, che è Sì, quello che no? si racconta nei blog, Sì, d'accordo, però... no, ne prende 15.000, però. Il no? che... E non è No, proprio così. Se vuole anche glielo racconto. Non è proprio così. guardi che abbiamo avuto diversi parlamentari qui a parlare dello stipendio Sì, ma io le documento l'impiego nel territorio. Ancora con questo impiego del territorio, non è un obbligo l'impiego nel territorio, si Come non è un prendono, ho obbligo? capito, ma è l'attività politica di vita quotidiana che Certo, tutti ma noi il rapporto facciamo. con i cittadini è stato sostenuto come importante. Se io devo fare un manifesto, i soldi li prendo dalle imprese? Scusi, ma c'è anche, lei sa benissimo, Maran, che No, ma c'è il finanziamento pubblico ai partiti. Esiste il finanziamento pubblico ai partiti, non mi può dire che questa voce non esiste. non è dato ai parlamentari, No, non è non è dato nostro. direttamente ai parlamentari, è dato direttamente per l'attività politica anche quotidiana e spesso viene dato anche ai gruppi parlamentari, ai singoli parlamentari per No, le ai elezioni. singoli parlamentari Per io le non ho mai. No, elezioni, non ho per le mai. elezioni No, no, anche. guardi, io non ho mai visto una lira. Non è così. Non ho visto una lira.